pochi romani armata schiera or viene a me. Romani, in che offendeste i numi? E qual delitto pochi dai nostri molti all'incontrar la morte ora vi guida? Costui quanto è superbo e minaccioso! Dove i consoli sono? Dove il guerriero esercito feroce? Pronto il uomo verrà, se verrà il uomo! O tu, che solo parli, e vanti armato tutta verde i romani, la forza nel tuo braccio, Ercole invitto, qui vieni meco a singolar cimento, e di noi dall'evento veggasi sei miglior sull'egual piano, e di ferro latin prando romano. E comodo del padre del senato, ricordiaci a lei, baby. Schivo alla pugna! La pugna io non recuso! Altro impegno la vieta! Chi la vieta? Timore oppur viltane! Non teme di romani, l'anima ardita e fiera! Ne conosci vita, voglio un guerriero! Maglio e questi, fratello di Vitellia, qui Roma a te ti manda! Di cercar tanto etri, autorità non tieni! Guerrier d'onor alla disfida è pronto! Pronto è cor, pronto è braccio, ma perché miglior tempo attenderteggio? Alto campion latino, l'onor di pugnar teco, io mi riservo! Io vuoco la tua vada di quest'onor superbo! E quali angustie sono? Tempo rimane all'animo guerriero. Tu non sei cavaliero. A puntura si accerma, porta il brando la mano. Eccomi! No, costui ti servirà germano. Guerrier cui vanità solarma il fianco. Devo pedire al padre. Dei cimenti nemico e delle risse. E ti disse noto. Addio, Gemmigno! Vanne tra le femmine in Roma. Gemmigno, addio! Non resti tra i corvi, palma codarda, esci dal campo! Sempre baglio romano, nel campo di Bellona, entra di muso, e non esce già mai se non invitto. Ma il por mano alla spada è in te delitto, se non l'impugni a te la tieni a lato. Voglio provocare!